versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 2 di dicembre, 16:35, primi e 20 secondi. Avete visto sui giornali stamattina, immagino, tanti commenti e tante pagine dedicate alle questioni energetiche, perché con la somma di due circostanze di grande impatto, cioè da una parte il prezzo del barile del petrolio che continua a scendere, ormai siamo intorno ai $65 dopo la decisione dell'OPEC di non aumentare l'offerta, e ovviamente $65 sono un prezzo del barile che noi dovremmo considerare molto positivo, tranne il fatto che da noi più del 60% del costo della pompa se lo prende lo Stato e quindi non scende la benzina, ma al di là di questo è un fattore che squilibra internazionalmente molto, perché ci sono paesi come l'Iran, come la Russia, che hanno il più dei proventi dall'energia e per non fargli saltare per aria la loro economia e il loro bilancio, che dipende soprattutto da questo, hanno bisogno intorno a $100, perché con $65 saltano per aria. Il rublo è in caduta libera da questo punto di vista, si teme la necessità di misure di controllo amministrativo delle valute dei capitali oramai in Russia, che è in recessione piena, perché naturalmente è il contorno anche l'effetto delle sanzioni sul caso ucraino, e questo da una parte. Dall'altra, avete letto la decisione annunciata da Putin in visita ad Ankara di far saltare per aria il South Stream, una pipeline per portarci gas che serviva ad aggirare l'Ucraina, quindi passando sotto il Mar Nero per arrivare ai Balcani e all'Italia, in cui era molto in causa in parte l'ENI e Snam, con tanti commenti sulla parte della stampa su che cosa questo implica per un paese ad alta dipendenza energetica come l'Italia. Questo è lo scenario per arrivare al punto di oggi. Oggi ci occupiamo di un caso che secondo me fotografa bene l'incapacità italiana di prendere decisioni in materia energetica secondo criteri trasparenti, condivisi, con tempi certi che non spiazzino i privati, guardando alla dipendenza energetica, ovviamente, che è molto forte proprio per il gas, quando noi abbiamo scelto dopo il referendum nucleare di fare il più delle centrali a ciclo combinato per produrre energia elettrica con il gas, abbiamo accettato una prospettiva di fortissima dipendenza energetica, sostanzialmente soprattutto da paesi a rischio come l'Algeria e la Russia. E di che cosa parliamo? Dunque, di un caso che fa molto discutere e quindi, io mi rendo conto, dividerà anche voi ascoltatori. Se volete chiamateci, parliamo della centrale a carbone di Vado Ligure, quindi stiamo parlando della provincia di Savona. Vi riepilogo i fatti: stiamo parlando di una grande centrale per la produzione di energia elettrica che oltre un'unità di 800 MW che va avanti appunto a ciclo combinato con il gas, ne ha due, ciascuna da 330 MW con il carbone, e quindi questo è il tema delicato. Stiamo parlando di una delle 12 centrali a carbone che producono energia elettrica nel nostro paese. La centrale di Vado Ligure, che appartiene a un gruppo che si chiama Tirreno Power, il cui azionista di maggioranza è la multinazionale Gaz de France US, è da marzo di quest'anno sequestrata da parte della magistratura savonese, e la magistratura di Savona procede con l'ipotesi di disastro ambientale. La magistratura di Savona procede sulla base di una perizia di parte elaborata da alcuni scienziati, mettendosi sul solco degli argomenti molto ostili alla centrale dei comitati per il no, che per anni si sono dati da fare contro la centrale a carbone di Vado Ligure. E questa perizia, secondo la quale si è dovuto all'emissione della centrale il verificarsi di oltre 400 vittime negli anni, è una perizia sulla quale, tanto per cominciare, come spessissimo purtroppo avviene nel nostro paese, il mondo scientifico si è assolutamente spaccato, perché sia l'Istituto di Tumori di Genova che l'Istituto Superiore di Sanità hanno detto l'evidenza di questa perizia è fatta secondo criteri che sono non solo discutibili, ma che non sono quelli da adottare in un caso come questo. Perché? Innanzitutto perché le rilevazioni delle stesse centraline dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente della Regione Liguria, l'ARPA, testimoniavano che mentre era in esercizio la centrale, le emissioni della centrale erano infinitamente inferiori rispetto a quelle di legge. E poi perché, si legge nelle altre controperizie dell'Istituto Superiore di Sanità e così via, è letteralmente una arrampicatura sugli specchi quello che sostengono i periti della procura. Io mi limito a sintetizzare le cose. Dopodiché, da marzo, e su questa base, la proprietà, l'azienda che gestisce la centrale, avanza un progetto di investimento e di messa in regola anche ambientale per 80 milioni di euro. Ricordiamo che lì lavorano oltre 700 persone. Da giugno, visto che i mesi passavano, si è passati ai primi 315 esuberi. Anche i sindacati e i lavoratori sono per la ripresa dei lavori della produzione da parte della centrale. Da allora stiamo aspettando un atto che doveva avvenire già a settembre, cioè questo atto da parte della commissione presso il Ministero dell'Ambiente, che è quella responsabile dell'AIA, doveva rendere un parere istruttorio conclusivo intorno a l'ok, il disco verde o meno al piano presentato per la rimessa in produzione della centrale. Da settembre siamo a dicembre, più volte annunciata la riunione della commissione non è mai avvenuta, due volte che doveva avvenire la casualità, sicuramente la casualità ha portato i procuratori a convocare dei membri della commissione per cui la commissione non si è riunita, e adesso stiamo aspettando di capire se una delle 12 maggiori centrali a carbone con emissioni molto al di sotto dei valori di legge che fine farà, cioè se il governo deciderà in base ai dati oppure se si assumerà la perizia della procura come decisione per chiuderla questa centrale, oppure via di mezzo, e qui entriamo nell'opinabile perché le indiscrezioni giornalistiche dicono che la commissione potrebbe dare indicazioni così impossibili da realizzare che, sia pur senza decidere la chiusura della centrale, è come decidere la chiusura della centrale. A me sembra una vicenda molto italiana, e lo dico con tutto il rispetto per le opinioni di ciascuno intorno alle centrali a carbone. Oggi stiamo parlando di tecnologie con filtri di abbattimento che riducono ulteriormente emissioni che erano già molto al di sotto dei valori di legge, perché la mia opinione è che nel nostro paese, non avendo considerato che in un mucchio di paesi europei, la Germania, la Polonia e così via, la quota di carbone è addirittura in crescita in questi anni, anche per abbattere la dipendenza energetica, e in quei paesi viene considerato che questi impianti sono nel rispetto delle norme ambientali e della sicurezza per le popolazioni intorno come di chi ci lavora, mi chiedo se noi siamo l'eccezione che insegna al mondo come si fa, o seppure siamo un paese che non riesce a decidere perché si fa trascinare da argomenti che con i dati, i numeri e gli effetti epidemiologici sulla salute e sulla sicurezza non hanno molto a che vedere. Mi limito a esprimere un dubbio da questo punto di vista molto forte, anche perché naturalmente, come potete immaginare, le imprese ci mettono centinaia di milioni, forse dico hanno anche loro, dopo tutte le preoccupazioni e le rassicurazioni sulla sicurezza e la salute, ma forse anche loro avrebbero un qualche diritto di sapere se queste centinaia di milioni che mettono devono tenerle bloccate con le banche, non bloccate, utilizzarle o meno. E pensate anche ai 700 lavoratori. Questo ve lo dico, ho preso un po' di tempo nella speranza che poi chi telefoni per criticare, e immagino ce ne saranno perché le centrali a carbone in Italia provocano molti no, mi diano atto che sto tentando di fare una sintesi la più completa possibile. E con noi, per parlarne e capire che cosa si aspettano loro, il presidente della società Gas de France Energia Italia, Giuseppe Gatti. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio Giannino, buon pomeriggio agli ascoltatori. Primo, voi che cosa vi aspettate? Si prende una decisione il 4 dicembre tra due giorni o c'è un altro rinvio? Guardi, francamente è difficile rispondere a questa domanda. Noi ci auguriamo che si prenda una decisione. Ovviamente ci auguriamo una decisione che ci consenta di riprendere l'attività e far ripartire l'impianto. Ma in ogni caso è opportuno che si chiuda questa storia e venga assunta una decisione definitiva per dare un minimo di certezza a noi e in generale agli operatori. Da questo punto di vista, gli ultimi sviluppi, per così dire, rispetto all'ipotesi che si assuma una decisione che chieda a voi di fare interventi ulteriori rispetto al piano sulla centrale, sulla copertura dei carbonili e così via, di fatto impossibili, voi come reagireste a questa opinione se fosse ratificata dalla Commissione del Ministero? Ma diciamo, ci sono due casi. Uno è che le osservazioni che abbiamo presentato vengano tenute in considerazione e questo ci consenta di realizzare gli interventi che abbiamo programmato. Si parla di 80 milioni di investimento che richiedono i tempi tecnici, la copertura del carbonile che lei ricordava significa fare un'opera che ha le dimensioni della stazione centrale di Milano, quindi credo che chiunque si renda conto della follia. Tra l'altro tenga presente che non è ancora stata autorizzata, noi abbiamo avuto un'autorizzazione di carattere generale a inserire il calcolatore del carbonile all'interno delle opere da fare alla fine del 2012, abbiamo presentato dopo pochi mesi un progetto, a oggi, novembre, ancora attendiamo il decreto di autorizzazione, quindi anche volendo noi non possiamo partire con i lavori. Dopodiché ci chiederebbe di realizzare il carbonile entro marzo del 2015, cioè in tre mesi fare un'opera che, ripeto, ha le dimensioni della stazione centrale di Milano. È chiaro che questo è chiaramente impossibile, quindi noi ci auguriamo che queste l'organizzazione dei lavori secondo un cronoprogramma ragionevole è nelle cose un fatto di buon senso e venga accolto. In questo caso noi siamo pronti a partire non appena la procura di Savona ci dissequestra l'impianto e ci mette nella disponibilità degli impianti per realizzare le opere. E diversamente saremo costretti a prendere atto della realtà che in Italia non si vuol fare il carbone. Faccio ancora presente tra l'altro che abbiamo proposto una serie di interventi che non solo sono di consistente dimensione, ma che porterebbero i limiti di emissione di Vado Ligure a livelli nettamente inferiori a quelli degli altri centrali. Le faccio soltanto un esempio: in Liguria c'è un'altra grande centrale a carbone, alla Spezia, siamo a 100 km in linea d'aria da Vado, quindi in situazioni non dissimili. Alla Spezia, per quanto riguarda il biossido di zolfo, cioè il cosiddetto SO2, il limite è di 350 millesimi. Il nostro progetto per Vado Ligure prevede 200 millesimi, 200 contro 350 di La Spezia. Per l'ossido di azoto, l'NOx, alla Spezia siamo a 200 e noi proponiamo di raggiungere lo stesso livello, di passare a 150. E quindi ci portiamo ai limiti di quello che è fattibile su vecchi impianti a carbone. Ci rendiamo conto che potessimo realizzare un impianto ex novo riusciremo ad ottenere anche emissioni più basse, ma siamo ai limiti delle best available, migliori tecnologie disponibili. E ovviamente questo richiede i tempi e se non ce li danno dobbiamo prendere atto e chiudere il carbone, vuol dire che l'Italia rinuncia ad avere un mix più equilibrato nel suo portafoglio energetico. Ti credo, caro Giannino, che noi non siamo dei fanatici del carbone e il nostro gruppo si vanta di avere il parco termoelettrico in Europa con il più basso livello di emissioni, però ci vuole un qualche equilibrio di portafoglio. Lei ricorda prima il caso degli altri paesi. In Germania attualmente il carbone copre quasi il 50% della produzione elettrica, è aumentato molto dopo che lo shale gas americano ha fatto crollare i prezzi del carbone. In Italia e alla media europea è intorno al 30%, il 28-30% della produzione elettrica europea è fatta con il carbone. In Italia siamo a meno del 15%. E questo cosa significa poi? Che in Germania l'energia elettrica costa dai 35 ai 40 euro a megawattora. In Italia costa dai 55 ai 60. E questo è un paese schizofrenico. Da un lato si lamenta di avere un'energia cara, troppo cara, che penalizza la competitività delle nostre imprese, e dall'altra rifiutiamo il nucleare, rifiutiamo il carbone e vogliamo fare soltanto le rinnovabili che hanno tutti i loro pregi ma hanno anche un costo altissimo per la collettività e per le imprese. Allora io adesso le faccio una domanda, poi la risposta me la dà tra 60 secondi perché abbiamo l'informazione sulle strade che è in ritardo di qualche minuto. Ci sono, rispetto ai pareri, alla perizia fatta propria dalla procura che parla quella dei 400 morti e così via, le perizie opposte, cioè quelle dell'unità di epidemiologia clinica del sito del tumore di Genova, quella dell'IST di Genova, per me insomma, non è ipotizzabile che l'unità di epidemiologia clinica dell'Istituto dei Tumori di Genova sia pagato da voi. Siccome la gente pensa che a quel punto, visti gli interessi vostri, vi pagate gli scienziati per smentire quelli della procura, vi faccio la domanda esplicita. Le opinioni che sono venute, documentate e inviate alla procura, per esempio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, sono venute su vostro impulso? C'è stata una verifica della magistratura anche sui vostri rapporti con questi scienziati che dicono ma la perizia dei PM non sta in piedi? Stiamo parlando della centrale a carbone, delle due unità a carbone della centrale di Vado Ligure, sequestrata da marzo. La procura dice c'è disastro ambientale, centinaia di morti, una perizia elaborata da alcuni scienziati, fatta proprio dalla procura, sostiene questo. Altre parti del mondo scientifico, ma voglio dire la ASL di Savona, per esempio, la ASL di Savona dice che gli studi acquisiti dalla procura si pongono, testuale, leggo, in netto contrasto con i risultati di tutti gli studi epidemiologici fino ad ora condotti sullo stato di salute della popolazione della provincia di Savona. Il Ministero della Salute, spiega che in base ai dati ISTAT nel periodo 2004-2010 la mortalità generale della popolazione di Vado Ligure non si discosta da quella della popolazione della Liguria, e così via. Ho parlato dell'unità epidemiologica dell'Istituto dei Tumori di Genova, ho parlato della perizia dell'IST di Genova. Che rapporti avete voi dell'impresa a cui fa capo la centrale, che aspettate la decisione dello Stato da marzo, con queste opinioni scientifiche avverse a invece le risultanze fatte proprio dalla procura, presidente Gatti? Nessuno, penso, possa mettere in dubbio, pensare anche lontanamente, che noi abbiamo pagato l'ASL o abbiamo pagato il Ministero della Salute, e quindi è evidente che da parte nostra c'è stata molta attenzione a queste valutazioni e risultanze, ma nessuna interferenza, No, il fatto, se mi permette, io mi sono visto la perizia, siccome in vita mia ho insegnato che hanno statistica economica, mi sono guardato con particolare attenzione le elaborazioni statistiche. E dico soltanto un fatto: quando lei mi considera come caso ogni ricovero, allora lei potrebbe avere un soggetto che è malato cronico di malattie polmonari e si ricovera 10 volte all'anno in ospedale o 10 volte all'anno a farsi visitare e ci va per 10 anni, secondo questi che lei ha chiamato scienziati, io avrei 100 casi, quindi basta un solo soggetto per potermi imputare di strage, perché se un solo soggetto mi diventano 100 casi, lei capisce subito che abbiamo un'alterazione della realtà statistica che abbiamo esaminato. Ecco, non dico altro, io ho grande rispetto per la magistratura, di formazione sono un economista, ma venendo dalla scuola torinese che dai tempi di Luigi Einaudi forma gli economisti innanzitutto con la laurea in legge, mi sono laureato in giurisprudenza, ho imparato lì il massimo rispetto per le istituzioni e per la magistratura, però quando vedo dei tribunali che ordinano degli ospedali di praticare il protocollo Stamina, mi cadono un po' le braccia, come mi cadono le braccia quando vedo certi procuratori che si affidano a perizie che non hanno il minimo fondamento scientifico. E ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che tra i membri della commissione che ha elaborato la perizia fatta proprio dalla procura c'è uno dei più noti esponenti del comitato del no, quindi la procura ha scelto, per così dire, sto parlando di Paolo Franceschi, poi ci sono anche alcuni medici, però c'è un esponente del comitato per il no. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori, cominciamo con Giorgio che ci manda ancora, prego Giorgio. Buonasera, io volevo semplicemente dire, ne so poche di impianti di carbone, ma quello che ho ascoltato adesso, cioè il fatto di basarsi su dati scientificamente poco validi o un'avversione da parte delle popolazioni, lo vediamo in qualsiasi impianto proposto in Italia. Anche la semplice pala eolica viene contestata come se fosse, non so, come se arrivasse veramente una centrale, non so, come se fosse una seconda Chernobyl. Io li ho seguiti diverse volte, i comitati del no hanno un loro modus operandi che ripercorre l'impedimento dello sviluppo turistico e la salute e l'ambiente, a seconda, cioè non importa che tipo di impianto sia. No, è la sindrome NIMBY. Io devo dire che mi aspettavo, sono molti ascoltatori, leggo uno solo, Maria, che mi dice che io continuo a difendere gli assassini dell'energia mentre bisogna chiudere tutto ciò che provoca danni sull'ambiente. Maria, io non sono un difensore di assassini e non credo che chi gestisce una centrale a carbone con i filtri di abbattimento sia un assassino, tutto qua. Va bene, grazie al presidente Gatti, continuate con Radio 24, appuntamento a domani.